Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli. Dunque, l'Europa che non può che ripartire oggi dalla Polonia, dunque un voto destinato a pesare sulla scena dei 28, una grande nazione, una nazione avremmo detto emergente in altri tempi, ormai chiaramente emersa e con una posizione politica che attraverso le elezioni di ieri si è affermata in quella linea della destra populista con una forte pressione del cattolicesimo conservatore, insomma una linea che sta agitando parecchio i governi. Tutto questo mentre con una grande fatica Bruxelles aveva prodotto proprio ieri sera un nuovo accordo sui 100.000 posti, 100.000 posti destinati a essere all'interno dell'Unione Europea ma distribuiti tra le diverse nazioni. Allora, questi due temi di oggi, ripartiamo dalla Polonia con il nostro servizio. Da Bruxelles nessun commento, prima o poi arriveranno le congratulazioni di rito, da Mosca invece poca diplomazia. La Russia certamente rispetta i risultati delle elezioni, ma allo stesso tempo si rammarica del fatto che le relazioni bilaterali tra i due paesi non sono nella forma migliore. A Varsavia vanno al governo da soli i conservatori nazionalisti di Diritto e Giustizia, euroscettici e ultracattolici. Una creatura di Jaroslaw Kaczynski, fratello di quel Lech, spina nel fianco dell'Europa quando fu al governo e morto da presidente in un incidente aereo avvenuto sul suolo russo nel 2010. Hanno stravinto i conservatori, spingendo fuori dal Parlamento tutti i partiti di sinistra e ricacciando in un angolo i liberali europeisti di Piattaforma Civica, orfani di Tusk, attuale presidente del Consiglio europeo, che hanno governato negli ultimi 8 anni senza mai vedere l'ombra della recessione. Puntano a rafforzare la cooperazione regionale in seno al gruppo di Visegrad, che riunisce Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, per fare fronte comune contro i grandi dell'Unione Europea, contrari all'accoglienza dei rifugiati sul proprio territorio, sono contrari anche all'ingresso nell'Eurozona. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quindi una Polonia che si sposta con il voto in una posizione che avete sentito preoccupa la Russia, un avversario che storico ma che in queste settimane diventa sempre più un elemento di conflitto anche in relazione alle situazioni, agli sviluppi della situazione in Ucraina. Bene, in Ucraina, anche per l'Ucraina ieri è stata giornata di voto, le prime indicazioni indicano una sconfitta dei partiti associati e che sostengono il presidente Petro Poroshenko. Insomma, una situazione di grande mobilità e complessità che sicuramente non si fermerà con questo voto. Intanto, come vi abbiamo detto, l'Unione Europea fa i conti con i numeri dei profughi che cercano asilo in Europa. Al servizio. Abbiamo trovato un'intesa. Un esausto Jean-Claude Juncker, al termine di un vertice fra i paesi del centro-est Europa, più Macedonia, Serbia, Albania, ha annunciato che saranno creati 100.000 nuovi posti di accoglienza per i migranti della rotta dei Balcani, 50.000 lungo la rotta e 50.000 in Grecia. In questa maniera Bruxelles ha cercato di trovare una voce sola per rispondere al populismo e alla xenofobia crescenti nei paesi dell'est Europa. Negli stessi minuti in cui i polacchi depositavano nelle urne elettorali il loro malessere e la loro disaffezione per l'Europa, e nelle stesse ore in cui la piccola Slovenia veniva attraversata ancora una volta da un fiume umano di migranti, 7.000 persone soltanto oggi. Il testo concordato nel summit contiene 17 punti e prevede l'applicazione entro 24 ore, mentre Juncker ribadisce che i migranti devono essere registrati e se non c'è registrazione non ci sarà nessun diritto. Centrale il ruolo dell'Alto Commissariato ONU ai rifugiati, che contribuirà a creare 70.000 posti su 100.000. Sulla rotta dei Balcani sono passate oltre 250.000 persone in un solo mese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per l'Europa, ritorniamo domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.